Radio Africa, trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Onda Rossa dedicata alle sonorità del continente africano, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, come sapete, non fa pubblicità e quindi se volete sostenere questa radio il conto corrente postale è il 61 80 40 01 intestato alla cooperativa Laboratorio 2001, Via dei Volsci 56, Roma. Questo sabato ci faremo un'escursione attraverso la musica africana degli anni 80. Gli anni 80 sono stati per la musica africana un periodo molto florido in cui appunto è stata conosciuta a livello di massa soprattutto in Occidente, lì dove appunto c'era la più possibilità, diciamo così, di acquisto da parte dei consumatori, anche perché appunto è stata un'operazione anche commerciale l'approdo in Francia, in Inghilterra, in Europa della musica africana in quel periodo, ed è anche dovuto soprattutto a molti artisti che lavoravano in Europa e che producevano sul posto. Nonostante questo approccio commerciale, sicuramente negli anni 80 la musica africana ha avuto delle punte di qualità e molti artisti che poi si sono affermati sono usciti fuori proprio in quel periodo. Uno di questi è stato senza dubbio Kingsani Adé, che è il padre di un genere musicale che si chiama Juju, un genere musicale che proviene dal popolo Yoruba in Nigeria. Ebbene, lui è stato anche, soprattutto da giovane, contattato da alcune etichette come la Island, che cercarono di farne il Bob Marley africano, con risultati però, diciamo così, non eccellenti. Nonostante questo, la qualità della sua musica è sicuramente indiscutibile e sicuramente Kingsani Adé è diventato una vera e propria stella nel firmamento della musica africana. Ce lo ascoltiamo in questo brano che si intitola Jingo insieme a Manu Dibango. gbẹ ohun jọ wòye dẹkun pẹpẹ mi o mama jẹ n bó ṣe kú o oníbu ọrẹ torí òwúrọ láwà bàbá dalẹ ló san wá ìrìnṣẹ ajé ṣe kí ṣòwò kí n jèrè ìrìnṣẹ ajé ṣe kí ṣòwò kí n jèrè mama jẹ n bó ṣe kú o ọba ńlá. Insieme a Manu Dibango, Jingo e King Sunny Ade era stato il re della Juju Music. Juju Music che nasce da una musica tradizionale suonata con le percussioni, musica tradizionale Yoruba, e significa Juju come un nome che indica un oggetto magico, qualsiasi magia, ed è molto comune in Africa dell'Ovest, ad Haiti, a Cuba, ed è si è evoluta nel 1920 in una musica urbana grazie a un personaggio che si chiamava Baba Tunde King, che era conosciuto come Tunde King e che ha registrato il suo primo album Juju appunto nel 1920. E allora King Sunny Ade, che appunto diventò molto famoso intorno agli anni 80, un altro personaggio che in quel periodo insomma aveva attirato l'attenzione, era Tony Allen, è una vecchia conoscenza dell'Afrobeat, è stato il batterista del gruppo di Fela Nicolapo Kuti, e ce l'ascoltiamo in questa lato B di un album che si chiama Never Expect Power Always, acronimo NEPA, e che sta appunto a indicare che nessuno doveva aspettarsi l'arrivo dell'energia elettrica a Lagos. Omo na lo Allen con questo suo NEPA, acronimo appunto che significa Never Expected Power, Power Always, che è anche l'acronimo dell'ente dell'energia elettrica nigeriano, che appunto non era molto efficiente. 16:46 all'ascolto di Radio Africa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, e vi ricordo anche il contatto telefonico che è 06 49 17 50. Negli anni 80 la musica africana incontrò anche altri generi, e sicuramente uno degli artisti che più era predisposto a questo incontro era Manu Dibango, Manu Dibango, uno dei più grandi musicisti africani viventi. E allora lui si incontrò con Herbie Hancock e fece una serie di brani molto, molto interessanti, molto travolgenti. E allora questo è Abele Dance. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Abele Dance. E naturalmente tutte le buone intenzioni di fare una trasmissione dedicata agli anni Ottanta, come dire, svaniscono, perché mi viene in mente una liaison con questo brano e con un brano dei Magic System, che è un gruppo musicale ivoriano che è nato nel 1996, quindi siamo abbondantemente oltre gli anni Ottanta. Quattro membri del gruppo che si chiamano Asalfogo, detti No e Manaja, e che vengono fuori dalla scena dello Zouglou. Zouglou è un genere musicale che nasce in Costa d'Avorio intorno agli anni 90, soprattutto negli ambienti universitari di Abidjan, durante le proteste molto forti contro appunto le condizioni di vita degli studenti nella capitale E dallo Zouglou appunto nascono moltissimi gruppi, fra cui anche i Magic System. Il loro album, il loro brano Le Premier Gao all'inizio non ha molto successo, ha molto successo soprattutto in Costa d'Avorio, poi cercano di distribuirlo in Francia, ma il debutto non è fra i più semplici. Poi nel 2001 c'è l'esplosione. Allora ce lo sentiamo, Le Premier Gao, in questa versione rimissata da Bob Sinclair. questo è il grande Salif Keita, Salif Keita in questo Madame. Vi ricordo che oggi, primo di giugno, c'è la Cemona interplanetaria, quindi l'appuntamento è a Via Norvegia, vicino all'Auditorium Parco della Musica. Insomma, stanno lì, sono lì pronti per partire tutti coloro che insomma vogliono praticare un modo diverso di mobilità all'interno della metropoli con le biciclette. Quindi l'appuntamento per questa Cemona, il decimo compleanno di questa iniziativa, è appunto a Via Norvegia, vicino all'Auditorium del Parco della Musica. Questo pezzo che poi divenne un hit nelle dance floor non solamente africane ma anche in Europa, è tratto dal suo album Mofu. Mofu è il nome di un flauto che i pastori suonavano per allontanare gli uccelli. Ebbene, questo è un album che ha avuto molto successo, ma che naturalmente ha contribuito ad affermare Salif Keita. Un altro musicista, e qui torniamo intorno agli anni 80, alla fine degli anni 80, che ebbe molto successo con un brano che si chiamava Yeke Yeke, un brano che ha sbancato in quegli anni in Europa, è stato sicuramente Mori Kante, che comunque dalla sua ha una voce bellissima. Allora ce lo riascoltiamo volentieri, questo brano dell'87, Yeke Yeke, lui è Mori Kante. We'll be right back. lalé hey, hey. Ke boli lalé nadin kadega ke boli lalé hey, hey. We boli lalé nadin kadega we boli lalé hey, hey. Ke boli lalé nadin kadega ke boli lalé Chi è che di Moricante che ci porta fino alle 17.05 sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 e la modulazione di frequenza. Questa è Radio Africa e vi ricordo anche il contatto telefonico che è 06 49 17 50. E allora rimaniamo intorno a quegli anni, precisamente intorno alla fine degli anni, alla metà degli anni 80. Lui si chiama Sanfan Thomas ed è un musicista del Camerun che suonava un genere che si chiama Makossa, un genere che poi Manu Dibango ha portato, diciamo così, a far conoscere a tutto il mondo. Sanfan Thomas ha cominciato a suonare intorno agli anni 60 e con un gruppo che si chiamava Le Tigre Noir e diciamo che il suo successo, il suo brano di maggior successo è stato proprio African Typic Collection, il suo album, e proprio da questo album noi ci andiamo ad ascoltare il brano che gli ha dato appunto il successo. Mm-hmm. San Fantomas dal Camerun con questo brano African Typic Collection, un brano appunto con lo stile Makossa. Ma in questo brano San Fantomas evoca anche altri stili della musica camerunense, come per esempio il Kavasha o l'Assiko. L'Assiko invece è un genere che si suona sia in Camerun che in alcune parti del Ghana. Ed è un brano che si ascoltava sovente nelle discoteche parigine intorno appunto alla metà degli anni 80. Allora, San Fantomas, 17:12 all'ascolto di Radio Africa dai microfoni di Radio Onda Rossa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza, questa appunto è Radio Africa. Un altro musicista che veniva dall'Africa dell'Ovest e che era molto legato alle sue radici, ma che riusciva anche in qualche modo a modernizzare il suo sound, era sicuramente Amadou Balaké, che era nato nel Burkina Faso e aveva cominciato la sua carriera invece in Ghana, ma il successo lo ebbe quando si trasferì ad Abidjan in Costa d'Avorio. Abidjan in quel periodo era una fucina di artisti che provenivano da tutta l'Africa occidentale, anche perché era una città che cresceva, che aveva un grande fermento culturale e artistico anche grazie ai proventi, diciamo così, delle materie prime. Era un periodo in cui appunto la Costa d'Avorio era considerata la perla dell'ex impero coloniale francese. E Amadou Balaké divenne membro di un supergruppo, gli Africando All Star. Un brano del 1989, un brano molto divertente e ironico, Taxi Man. Va avanti così con questi riff, è lui che parla, appunto, che racconta le disavventure di questo tassista. Vorremmo se ne per far dormire, vorremmo se ne per far dormire, il fuoco c'è parato di tassa, non va mai di più. E allora un altro musicista che racconta le storie della, le storie di vita, le storie reali, era sicuramente Maître Gazonga. Maître Gazonga veniva dal Chad e sicuramente è uno dei, il musicista del Chad più conosciuto al mondo. Il suo vero nome era Hamat Saleh Rugalta, lui poi è morto nel 2006 e aveva cominciato a suonare giovanissimo anche lui ed è entrato nel gruppo International Cha Cha Cha, di cui fu un membro fondatore, e ha registrato il suo primo album Golden Africa ad Abidjan nel 1984. Mentre Gazonga e il suo gruppo Shalal avevano trovato un modo per fare le tournée attraverso il Chad, non avevano soldi e quindi però loro sapevano che nelle zone rurali le persone, nonostante la povertà, non avevano soldi ma volevano divertirsi, e così il gruppo faceva concerti in queste zone rurali, avendo in cambio quello che i contadini potevano dargli, cioè il sorgo, il riso e tutto quello che c'era da mangiare, e tornavano poi a N'Djamena con i camion che appunto ritornavano nella capitale. E allora mettere Gazonga, questo brano che si chiama Les Jaloux Saboteurs. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Et voici l'international Chalal et Maître Gazonga depuis Abidjan. Mes amis, est-ce qu'on peut y aller? Bien sûr. Ok, d'accord. Bien sûr. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui-Yé-Yé, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. C'est qui ignore mes dix tout haut, tu n'es pas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Brazzaville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui-Yé-Yé, j'ai trop souffert. Ceux qui ignorent me disent tout haut, tu n'es pas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, souhaitent ma misère. Et voilà mon problème. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Yaoundé, j'ai trop souffert. Ceux qui ignorent me disent où, oh, tu n'es pas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème. Soi Jalais Saboteur, un brano che riesce a mantenere un ritmo incessante per tutti gli 8 minuti. E allora 17:25 all'ascolto di Radio Africa dai microfoni di Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza. Vi ricordo anche il contatto telefonico che è 06 49 17 50. Abidjan, dove appunto è stato registrato questo brano, Costa d'Avorio, ce ne andiamo in Africa orientale, in Uganda, dove incontriamo un gruppo musicale che si chiama l'Orchestra Makassi. È un gruppo che suonava Sokus, perché era composto principalmente da artisti dello Zaire, adesso Repubblica Democratica del Congo, oppure come si dice in Swahili, musica va dansi, e infatti per danzare facevano danzare. Il gruppo nel 75 si trasferì a Dar es Salaam e c'era con loro Mosse Fanfan, che è uno dei grandi musicisti che ha fatto conoscere la rumba in tutto il mondo, e poi a un certo punto militò con loro anche Remy Ongala. E allora questo è il brano Mambo Bado, e loro sono l'Orchestra Makassi. l'orchestra Makassi, questo gruppo di congolesi che suonava in Uganda. E allora 17:31, noi adesso ce ne andiamo sempre in ambiente congolese. Lui è Sam Mangwana è uno dei musicisti congolesi più interessanti. Lui nel tale fatti non è congolese, perché è nato, se non ricordo male, in Angola e ha girato tutta l'Africa, quindi è un musicista come tanti in Africa, che ha attraversato i confini, che ha attraversato i generi, che ha suonato in tante capitali e quindi è riuscito, diciamo così, a raccogliere tutti quegli stimoli che provenivano dalle tanti generi musicali che costituiscono questo grande continente, che fanno di questo grande continente dal punto di vista musicale un viaggio, un'esplorazione sempre inedita e affascinante. Sam Mangwana, questo suo brano che è del 1982, Transbero. Oye, Sam Mangwana. San Manguana nel suo Trans Bureau, 17:36 all'ascolto di Radio Onda Rossa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Questa è Radio Africa. Vi ricordo anche il contatto telefonico 06 49 17 50. E allora da San Manguana andiamo ad ascoltare quella che a mio modesto parere è la più bella voce d'Africa, è quella di Mbilia Mbel. Mbilia Mbel è nata nel 59 in Congo ed è stata la compagna di Tabulei Rochereau, un altro grande artista del Congo. Lei poi ha viaggiato, è andata negli Stati Uniti, in Inghilterra, ed è diventata una vera e propria diva. Una voce stupenda, ve la voglio far ascoltare in questo brano che si chiama Eswi Yo Wapi, un brano del 1983, e lei è Mbilia Mbel. Na yoka ki yango na nzimite, kasi na moni le lomba na misato maka. Allora, Millian Bell e la sua bellissima voce in questo brano che risale agli anni al 1982. Millian Bell è una cantante, una musicista che vive in una situazione che proviene da un paese, quello il Congo, che è devastato da una guerra civile che sembra interminabile e in cui appunto le donne sono le prime vittime, perché soprattutto in alcune regioni come quelle del Nord Kivu viene praticata un vero e proprio un'arma come lo stupro di massa. Sono centinaia le donne che sono violentate dalle bande armate che si fronteggiano in quella zona da parte dei guerriglieri dell'M23 e anche da parte dell'esercito. Lo stupro viene usato ormai come un'arma di guerra e si sono mobilitati molti contro queste atrocità, ma fino adesso appunto non si riesce, diciamo così, a trovare un modo per controllare la situazione, nonostante che nel Congo in quella parte sia dispiegata la MONUC, cioè le squadre di intervento militari dell'ONU, che sono pesantemente armati, equipaggiati, ultra finanziati anche dal punto di vista numerico. È una delle missioni più imponenti dell'ONU, ma che non riesce assolutamente a controllare la situazione, anzi è stata messa in discussione, diciamo così, la sua presenza, in considerazione proprio della scarsa efficacia che c'ha per controllare queste situazioni e questi stupri di massa che vengono praticati dai contendenti contro le donne. E allora si sono fatte le 17:45, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Radio Africa, e allora da Millian Bell ce ne torniamo, diciamo così, in un'altra parte dell'Africa, la Guinea Conakry, che fra le altre cose in questo periodo, in cui preelettorale, sta vivendo una situazione di estrema tensione. Ci sono stati scontri a Conakry con fra le forze dell'ordine e l'opposizione. Ci sono stati 12 morti e 89 feriti fra il 22 e il 25 maggio, e il presidente Alpha Condé insomma continua a utilizzare il pugno di ferro contro l'opposizione, appunto in vista delle elezioni che si dovrebbero svolgere intorno alla fine di giugno. E allora dalla Guinea vi voglio far ascoltare un po' di, come dire, di novità. Lei è una musicista che viene appunto da Conakry e che ha uno stile diciamo così che è tradizionale ma influenzato anche dai ritmi in levare. Adesso ve la faccio ascoltare. Les jeunes hyper câblés de la capitale, les jeunes qui ont bien voulu se donner la main pour positiviter la musique urbaine, guinéenne. Et je vous dis que le label est signé par Sangol Sound et il y en a plein d'autres artistes qui sont là. Venez massivement demain, 14h. Vous êtes tous conviés demain à la dédicace de l'album Sembema. Hey, Lui si chiama Dub Snack, ha lavorato a Conakry, è registrato con dei giovani artisti, la maggior parte diciamo così sconosciuti, che si sono poi in qualche maniera misurati con dei generi come l'hip hop, il reggae, la dancehall, e il risultato sono stati appunto 16 tracce elettrico, funky, che si chiamano Sembe Ma Fa Fe, e appunto questo brano che noi ci stiamo ascoltando è Matotto Family. Mata la body hip hop avec la force tranquille. N'a rêvé, c'est bien ma colamuna, c'est bien ma colamuna. Ah, c'est bien ta na alana ira. Varma, c'est bien ma colamuna, c'est bien ma colamuna. Bugger, bugger, na la. Alala, guy, me no fit again. Y'a gars, son tour, I'm a new son tour. I'm a girl, I'm a wagon by land, y'a gars, son tour. Kiba, fil di moupe konto filira. Ide gide de, miskine wafe. Fe moulangri, balu mouna. Foul kinyere matama. Wali mouna, marabouli bala gotama. Bandiya bala sembe soto. Kine dume bala fili. Plombi sa yete matia. Demba ya kanye limania bala beira. Wopozent kati. Bo, bo. Fini weti, me wada dole denya koji. Emba hi me jogi so peji. Kabe weki down ma kambe inten koji. Mim pal pare, ko alla holo, ona di jiku ji. Dole den ari, dole den ari. Fanka malendi, fanka malendi. Nima anadelo, afa man koro. Nima susu mangelo, afa man koro. Fanka malendi, fanka malendi. My big puppy, no, a farmer, coro. So, my bag of Panumana, if I lay, but on the valet, Marilina, Sabati, if I lay, but Adamati, Utuma, and also Palais. Sick is the man, he's cool and macree, and so na cree. Materina Dori, piano na galerie, microphone na galerie, je passe a Dori, a son du goût de bouffer, motuli, bundu, bundu, fer, espiolo, yolo, fer, ayamu, dans la fer, on a vu son, on a son, on a fait, il a dit, mais là, mais dit, mais puis, il est. Mama po, tira ya, mama po. Ah, uno di la dinara, uno manetira. Yesa ye ma, ye kanena. E la scena musicale della Guinea Conakry è molto movimentata, non ci sono solamente ci sono anche altri musicisti come per esempio i Wantanara Revolution, loro suonano a San Francisco e il brano che ci ascoltiamo si chiama Root Boy. Allora, Onda Rossa, 87.9 nella modulazione di frequenza, abbiamo una corrispondenza dalla Cemona, mi senti? Sì, ci stai, ti sento un po' piano, però prova. Allora, vai, raccontaci un po', insomma, come sta andando. Allora, Cemona, decima edizione, come poc'anzi dicevi anche tu, calcolate che oggi è una giornata che non si annunciava proprio delle migliori dal punto di vista atmosferico, invece oggi da un paio d'ore è uscito uno splendido sole e le biciclette ci sono, ce ne sono tante. Stiamo adesso attraversando, percorrendo lungo del Flaminio e quindi anche come comunicazione per tutti e tutti coloro che decidono aggregarsi, come succede spesso la Cemona, che poi si passa sotto casa dei ciclisti urbani e questi alle volte quando non sono arrivati all'appuntamento principale poi si aggregano appunto a questo serpentone che si sta nodando nelle strade appunto del quartiere Flaminio. Un quartiere che abbiamo attraversato poche volte con la Cemona nelle edizioni passate, la Cemona interplanetaria, intergalattica o come meglio credete, e un quartiere che diciamo alle strade molto larghe, quindi c'è stato un inizio di sfilata di biciclette, insomma, che di critical mass, che ha un po' stentato perché si inserivano automobili, autobus, eccetera eccetera, poi finalmente si è ricompattato intero il gruppo e adesso è un bel colpo d'occhio. Potete sentire pure il rumoreggiare nel momento in cui ci siamo fermati. Che cosa dire? Tanti anni che c'è la Cemona e ormai una coscienza quasi di chi ci partecipa, ormai acquisita, profonda, radicata, che appunto è, come si diceva tanti anni fa, un altro mondo è possibile, ma non solo è possibile, è praticabile da oggi, e appunto cambiare le modalità delle nostre vite, del nostro vivere la città. Bella. C'è un altro redattore, ecco, della radio che ci saluta, che è mancato. Ciao. Ciao. E naturalmente è Mocio, insomma, che conosciamo. Ecco, proprio l'incontro con Matteo ci ricorda come appunto l'andare in bicicletta e questo popolo eterogeneo che in questa giornata anima appunto il blocco, ovvero sia si immedesima nel traffico, è il traffico della città, un traffico però è gioioso, allegro, colorato, simpatico, bizzarro, folle, e soprattutto che riconquista innanzitutto, oltre che l'aria pulita, tutte le cose che sappiamo, anche riconquista il tempo, cioè si prende del tempo, è in grado ricalcolare proprio i tempi della vita e la vita stessa, che appunto questi tempi, questi ritmi scandiscono. No, infatti uno degli aspetti dell'uso della bicicletta, a parte il fatto appunto di rompere il predominio dell'automobile, è anche quello in qualche maniera di rompere il paradigma produttivistico che ci costringe, diciamo così, ad essere sempre efficienti, sempre veloci, e quindi appunto, come dicevi te, a riconquistare un orizzonte spazio-temporale completamente diverso, che in qualche maniera rovescia, diciamo così, questa imposizione. Certo. Sì. Certo, assolutamente sì. L'hai detto molto bene, io credo appunto che è proprio da queste pratiche che, come sappiamo, innanzitutto questa pratica del Cemona e delle critical mass e della Cemona è una pratica appunto che innanzitutto è mensile, quindi ricordiamo a tutti che ogni venerdì, ultimo venerdì del mese, nella città di Roma si tiene la Cemona, la critical mass, e che la Cemona annuale è, diciamo, questo raduno intergalattico di due ruote, di mezzi che hanno come motore semplicemente le gambe e la pasta asciutta, come amiamo dire, che vengono un po' da tutta Europa, esperienze e da tutto il mondo, esperienze del genere. Le abbiamo anche ospitate per altre radio nei giorni scorsi, appunto ciclisti urbani che venivano dalle più disparate località d'Europa e anche per esempio quest'anno dall'Australia, quindi ecco, in qualche maniera è qualcosa pure che ha a che fare non solo appunto con i nostri tempi, ma con i tempi, diciamo, imposti, come dicevi te, un po' da quello che chiamiamo il neoliberismo, la globalizzazione, insomma questo pensiero unico che ha dominato in tutti questi anni e che vuole continuare a dominare e a imporci appunto queste. Senti, allora, la critical mass nasce praticamente 10 anni fa a San Francisco, e quindi no, molto più tempo fa. Anche San Francisco, a Roma nasce la critical mass 10 anni fa ed è la prima diciamo nel mondo dopo quelle, appunto, dopo gli esperimenti di San Francisco. Ecco, dovrebbe essere questa, ma poi magari c'è anche chi è più addentro alle questioni così storiche. Quello che mi chiedevo era se, nascendo in un contesto, diciamo così, un po' radicale borghese dell'ambiente così universitario di San Francisco, si è poi, come dire, evoluto, nel senso che poi è diventato anche uno strumento, sia pur nelle modalità gioiose, di critica a un certo assetto sociale, e quindi ha cambiato un po' anche l'aspetto, diciamo così. Essenzialmente io so che non ho partecipato, peraltro, però quest'anno appunto c'è stato questo ciclocamp alla officina Don Chisciotte e i successivi forum, che cercavano pure un po' di fare senso della situazione, cioè cercavano di convertire e di aggiungere delle parole a quella che è una pratica. Essenzialmente è quello, la critical mass è una pratica, è la pratica della bicicletta che viene fatta quotidianamente, cioè chi sceglie proprio personalmente di rompere appunto questi meccanismi brutali dell'esistenza di cui parlavi te, che sono fatti appunto a partire dal principio della produzione, della riproduzione dei poteri, eccetera eccetera, e fa una pratica anche abbastanza conveniente, istintiva, diciamo. L'approccio e l'arrivo all'utilizzare le due ruote è un approccio che psicologicamente ognuno affronta nella maniera che crede, e ognuno viene da un percorso di vita differente, ed è qui l'eterogeneità estrema anche nella rappresentazione dei ciclisti urbani, cioè nella critical mass. Dopodiché appunto si sta cercando pure appunto di mettere delle parole appresso alla pratica, perché appunto queste devono venire, c'è anche la necessità, come appunto è la pratica stessa appunto che crea la necessità pure di mettere ordine e di cercare di confrontare poi le varie esperienze pure, come dicevo prima, a livello internazionale. Quindi probabilmente la risposta è proprio in questa questo voler mettere le parole, e anche in questo caso, come nel caso della bicicletta, ad esempio, appunto, mi dicevano che alla mia, la Don Quixote, c'erano degli stand, dei workshop in cui, ad esempio, oltre a fabbricare le biciclette, a ripararle, a lavorare con la saldatrice, piuttosto, appunto, creare, appunto, con la creatività degli oggetti che appunto hanno una loro funzione, una loro rappresentatività. C'erano, non so, per esempio un workshop che insegnava a creare l'energia elettrica attraverso un gruppo tedesco che insegnava a produrre energia elettrica per i concerti attraverso le biciclette, quindi come a creare dei generatori a trazione umana che erano in grado di, appunto, creare energia elettrica e farci mandare un processo, cioè nel workshop su come si fabbricano i saponi. Quindi oppure, parlando appunto con altre esperienze in Europa, si diceva del fatto di come nelle ciclofficine adesso si lavorasse, per esempio, molto forme di discriminazione sessuale, diciamo, anche all'interno dei compagni stessi, delle anime stesse che animano le varie officine, le varie associazioni, perché appunto c'era una necessità in questo senso, cioè di rompere alcuni meccanismi, diciamo, di tipo di disparità sessuale, di preconcetti sessuali rispetto, per esempio, al tema donne e bicicletta. Quindi, appunto, si affrontano tutte le tematiche partendo, appunto, da questo atto semplice del pedalare. Senti, e allora voi state ancora in zona, insomma, mi sembra di aver capito. Dove arriverà? Il Flaminio numero 50, guarda, leggo dove arriverà è impossibile saperlo, dipende. Perché si segue il ciclo, appunto, geniale e folle di questo giorno, appunto, in cui il traffico siamo noi e ci riprendiamo la città. Benissimo, va bene, ti ringrazio e ci sentiamo. Grazie presto. Grazie a voi e a presto. Ciao, ciao. Ciao. African rude boy, in a man come one day. Rude boy, in a man come one day. Rude boy, in a man come one day. We are the rude boy, in a man come one day. Far off in a rude boy, in a man come one day. We are the rude boy, in a man come one day. African rude boy. African a rude boy. E allora 18.05 all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza. Abbiamo ascoltato una corrispondenza dalla Cemona interplanetaria, e quindi tutti in bicicletta. Fontana la Revolution dalla Guinea. E allora, fra non molto, Radio Africa lascerà il mixer a Soul Peanuts, e quindi rimanete in ascolto, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9. We are the good people. We are the bad people. We are the good people. Destiny never goes. We are the bad people. Destiny never goes away. We are the good people. Look at them and say, oh, yeah. Parafina rude boy, in a man confronte. We are the rude boy, in a man confronte. African a rude boy, in a man confronte. Rude boy, in a man confronte. Rude boy.